Capitolo 29. Venezia. 11 novembre 1548. Non è facile spiegar loro che devo partire. Non è facile raccontare di un nemico antico, Quelet, l'alleato di sempre, il traditore, l'infiltrato. Non sarà facile, ma è necessario. Spiegare i viaggi degli ultimi mesi, questa barba. Tiziano, l'apostolo col beneficio di Cristo in una mano e l'acqua del Giordano nell'altra. Chiudere un conto aperto più di 20 anni fa, cercando di mettere lo sbirro di Carafa, il più bravo, il più furbo, sulle tracce di un eresiarca anabattista creato su misura per lui. Non c'è altro tempo a disposizione. Il cerchio ha cominciato a stringersi prima del previsto, ma sapevo che sarebbe accaduto. Sto giocando col fuoco e non posso rischiare che loro ci vadano di mezzo. Lo stesso imperdonabile errore di tutta la vita. Il mio passato che irrompe sul presente ne fa strage, lacerando le carni di amici, sodali, amanti. Demetra, Beatrice, Joao, Pietro, nomi di morti imminenti. Partire prima che accada, trascinarmi dietro l'angelo sterminatore e l'eterno sbirro, lontano dagli affetti dell'ultima stagione. Camminare fino alle estreme propaggini, il fondo buco del culo di questa terra d'Europa che ho percorso in lungo e in largo. Farmi inseguire fin lì, e in quella chiavica maleodorante, attendere e regolare il conto di molte vite, da soli. Non importa quanto tempo, Eloi può riprendersi il suo nome. Sarò solo Tiziano il folle Battista. Joao vigilerà sul bordello e su Demetra al posto mio. Mi sposterò, seminerò indizi, girerò finché non avrò trascinato Quelet alla luce del sole. Perna, lo hai detto tu. Bisogna scoprire come va a finire, giocarsi la sorte e la vita per dare a esse un significato, per motivare tutte le sconfitte e anche ciò che resta da vivere. Non abbandono la partita, voglio concluderla, in qualunque modo. Dagli sguardi attoniti e dalle bocche serrate emerge soltanto la voce limpida di Beatrice. I sotterfugi a cui la vita ha costretto la mia famiglia non hanno mai impedito di apprezzare la sincerità, Ludovico. Sorride, le mie parole non hanno disarmato i suoi occhi neri. Lascia quindi che io ricambi la tua franchezza. Non sei tu la causa del pericolo che ci minaccia. Tutti sapevamo fin dall'inizio a quali rischi andavamo incontro imbarcandoci nell'impresa comune di diffondere il beneficio di Cristo. Abbiamo sfidato la scomunica del Concilio, l'Inquisizione, le ambigue strategie dei potenti veneziani. A quale scopo? La guerra spirituale condotta dai cani neri del Sant'Uffizio è una minaccia per tutti noi. Fingere di non saperlo non ci salverebbe. Guarda chi hai di fronte. Un libraio clandestino, la tenutaria di un bordello e una ricca famiglia giudea in fuga da mezzo secolo. Poi ci sei tu, eretico, reietto, ladro e lenone. Siamo tutto ciò che vogliamo spazzare via. Se vincono, prenderanno tutto, occuperanno ogni spazio. Verremo rinchiusi, i più fortunati moriranno. Beatrice si avvicina alla finestra, oltre la quale si intravede il canale della Giudecca, sullo sfondo di San Marco. Rimane una sagoma scura. Prosegue. Hai parlato di un destino personale con cui saldare i conti, dell'ala nera che ti volteggia sulla testa da tutta la vita e cancella quello che ti è caro. Le tue preoccupazioni sono nobili e sensate, ma ognuno deve fare la sua parte. Anch'io sono convinta che sia utile separarsi, ma soltanto restando uniti nelle intenzioni di un disegno comune. La pista di Tiziano che si allontana, seminando eresia e confusione, può portare i cani fuori strada, confonderne l'olfatto, rallentare la loro avanzata in attesa del nuovo Papa. Ma se questo sarà il tuo compito, ognuno di noi deve averne un altro. Joao si alza, niente sorrisi. Tu, zia, potresti tenere aperta la via d'uscita. Il tuo carisma e le tue conoscenze alla corte di Ferrara, dove siamo ben voluti per i prestiti al Duca e per la tua raffinatezza, possono garantire un approdo sicuro per tutti, se le cose dovessero precipitare. Io rimarrò qui a Venezia, a far valere le nostre largizioni. È ora che i patrizi e i mercanti di questa città dimostrino di dare il giusto peso a chi tiene in piedi il loro sfarzo e i loro affari. Intanto posso curare i nuovi commerci, le rotte che abbiamo aperto con il turco. Si rivolge a Perna. È meglio che tu stia lontano per un po'. Sarai il mio agente per le coste orientali. Diffonderai la nuova traduzione del beneficio in Croazia e Dalmazia, fino a Ragusa e oltre. Non ti occuperai solo di libri. Sarai il mio agente di collegamento fuori dalla portata dell'Inquisizione. Il piccoletto salta su. Vendere libri ai turchi? Sto sognando. fare su e giù su quelle tinozze maleodoranti. Ecco cosa tocca in sorte a Pietro Perna, uno che ha un nome, che è rispettato da Basilea a Roma. Ludovico, di qualcosa. Sì, appunto, ti serve un nome nuovo, magari meno rispettabile, ma meno conosciuto dagli sbirri. Perna si accascia sulla sedia, quasi scomparendoci dentro, i piedi a penzoloni. Yohao sorride a Demetra. L'affascinante donna Demetra continuerà a gestire il caratello come se niente fosse, con le orecchie sempre tese a ogni indiscrezione dei suoi facoltosi clienti. Ogni informazione può essere preziosa. Veglieremo su di lei e sulle ragazze in assenza di Ludovico. Beatrice. È inutile negare che il nostro destino dipende in buona parte da chi sarà il prossimo papa. Attenderemo quel momento per decidere come muoverci alla luce della nuova situazione. Bernardo sta riempiendo i calici. Yohao solleva il primo. Ha riacquistato il sorriso. Al futuro papa, allora! Ci liberiamo con una fragorosa risata.